Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sono più o meno le 16, non siamo in diretta, in realtà oggi è un altro giorno, è domenica, abbiamo appena finito un live, vi prego di farvi sentire. Siamo al Salone Nautico di Genova, abbiamo raccontato 10 storie che sono durate un'ora, adesso invece abbiamo solo mezz'ora fino alle 16.30 di questo giorno che è lunedì, fuori c'è un bellissimo sole. Per gli sms 349-238-6666, il meglio delle storie raccontate ieri al Salone Nautico di Genova in diretta, oggi a Radio 24. Non si tratta di immigrazione, non si tratta di viaggi di piacere, ma siamo nel mezzo di una regata che chi va in barca conosce, si chiama Mini Transat. E l'uomo a cui succede quello che sta per succedere è un po' un uomo sfortunato e un po' un uomo fortunato. È il 10 dicembre, la mattina intorno alle 6, l'Aliseo non stabile ha il suo massimo shift a destra. E allora strambo per avere una rotta tra i 220 e i 240 gradi. Il vento rinforza, la situazione è un po' disordinata. Diverse celle temporalesche del tutto simili a dei fronti rendono la navigazione complicata e il mare e il vento abbastanza caotici. La meteo annuncia Code Orange, che tradotto significa un gran casino. La barca, finché non faccio casini io con le onde, vola a 12 o a 13 nodi di velocità. Ogni tanto un tonfo, proprio come questo. Anzi no, come questo no. Non più forte, ma questo è un rumore strano. La barca straorza e allora mi dico stai più attento. Lasca randa, lasca spi, barca dritta. Cazza spi, cazza randa, un gran casino. Tutto si tende, volante, albero, rumori dallo scafo. Merda, ho qualcosa nella chiglia. Vedo all'interno della barca un'immagine che mi dice tutto. Il libro che mi hanno regalato prima della partenza galleggia sull'acqua ed è sotto, davanti ai miei occhi. Ha la copertina blu scuro con un cielo coperto di stelle. Entro, sposto lo spi e guardo ai piedi dell'albero. A destra e a sinistra dell'albero in coperta abbiamo i passascafi del sensore della velocità e della profondità. Il primo, quello più a sinistra, è completamente spaccato, ma parzialmente è ancora attaccato. Il destro invece è completamente divelto alla base, con una crepa che prosegue fino a 20-30 centimetri in alto sulla murata a fianco. L'acqua entra come una fontanella aperta in estate, questa volta però l'acqua è salata. Cerco i tappi in legno che dovrebbero otturare la falla, ce li infilo a forza. Pof, pof, saltano via in 20 secondi. C'è troppa pressione dal buco. La barca ormai è piena d'acqua. Capisco quello che devo capire. Decido di non lanciare il messaggio con il trasmettitore satellitare d'emergenza, ma di utilizzare solo il pulsante di assistenza della balise. Mi attivo per lasciare la barca. Faccio tutto quello che abbiamo studiato e preparato ai corsi più e più volte, con qualche variante da discutere magari davanti a una bella birra. La barca ormai è piena d'acqua. Continuo a chiamare sul canale 16 e sul 72, quello della regata. Lo faccio sia in francese sia in inglese. Tutto mi aspetto tranne che una voce italiana, anzi romana, mi risponda. È Federico Fornaro. È stato salvato anche lui qualche ora prima. Io sono incredulo. E chiamo ancora. Bateau assistance, ici Oompa Loompa, a vous. Andrea, sono Federico, che succede? No, non ci credo, richiamo ancora. Bateau assistance, ici Oompa Loompa, a vous. Andrea, sono Federico, la smetti di usare quel francese, tanto non lo capisce nessuno. Ok, è lui. Ci spieghiamo. Decidiamo che mi tireranno a bordo della zattera che è in attesa del loro arrivo. Quindi inizio a preparare la zattera di salvataggio. E dopo cinque ore dal lancio della richiesta di assistenza, salgo sulla zattera. Sono finalmente in contatto visivo con la barca appoggio, l'Imaginaire. Con un po' di fatica e di lavoro, dopo circa un'ora, sono a bordo e sono salvo. Guardo Federico, lui ride e mi abbraccia. Non gli chiedo niente, I suoi occhi parlano da soli. Intanto la barca, l'Imagineer, torna sulla sua rotta. Io invece guardo per l'ultima volta Oompa Loompa che sta affondando. Mi chiamo Andrea Jacopini. L'anno scorso ho corso la Mini Transat 2013, regata in solitario che si corre ogni 2 anni dalla Francia ai Caraibi. L'ultima edizione è stata estremamente particolare, una partenza rimandata di oltre un mese, e questo ritardo ha comportato che gli organizzatori decidessero di fare una tappa unica di oltre 3.000 miglia da Gion a Pointe-au-Pitre in Guadalupe. Giungo fino a 300 miglia dall'arrivo quando colpisco un bidone e la mia barca affonda. Chiamo i soccorsi, arrivano e mi tirano su. A bordo trovo 2 sorprese. La prima è un altro italiano, Federico Fornaro, che era stato salvato qualche ora prima. La seconda è una ragazza di cui mi innamoro. Oggi viviamo insieme e aspettiamo un bambino. Questa è un'altra storia che arriva da un tempo lontano. Ce la manda Giorgio Ferrari. Si chiama TSS Fair Star. Nell'anno 1990 mi trovavo a bordo della turbonave Fair Star, detta anche The Fun Ship, la barca del divertimento, una nave da crociera australiana molto famosa, con base a Sydney. Nata con il nome di Oxfordshire, il Fair Star era stata realizzata nel 1952 per il trasporto di truppe inglesi, convertita poi a diventare nave passeggeri nel 1964 per i viaggi degli immigrati dall'Inghilterra all'Australia, e dal dicembre del 74 impegnata in crociere nel sud del Pacifico. Il Fair Star era una nave da crociera lunga 187 metri, con 1.400 passeggeri e 400 uomini di equipaggio. Il suo nomignolo, The Fun Ship. Ed era davvero indovinato. La vita di bordo era gioiosa, le sue crociere nel sud Pacifico meravigliose. Il Fair Star era caratterizzato dall'età dei suoi passeggeri. L'età media era bassissima, si aggirava tra i 28 e i 30 anni. Ricordo che la sala da ballo era sempre piena. L'orchestra iniziava a suonare la sera e smetteva alle prime luci dell'alba, mentre la nave viaggiava sulle acque cristalline che riflettevano le prime luci del sole. Al mattino toccavamo isole dal nome esotico, Suva, Samoa, Tonga e tante altre. Il mio turno di lavoro in qualità di ufficiale di macchina era la prima guardia, in pratica dalle 4 del mattino alle 8. Poi fino alle 12 mi aspettavano i consueti lavori di ufficio come ordine di materiale e pezzi di ricambio. Riprendevo poi la mia guardia al pomeriggio, dalle 16 alle 20. Un giorno che credevo come tanti, dopo pranzo andai a dormire. La navigazione era tranquilla, il mare come al solito piatto, la giornata splendida. Appena disteso, come di consueto, misi alle orecchie le cuffiette del mio Walkman, ascoltando la musica preferita, quando all'improvviso un rumore sordo, come un boato, scosse la mia attenzione. Capii che doveva essere successo qualche cosa di grave, e un rumore così forte e profondo non poteva che provenire dalla sala macchine. Mi alzai di scatto, infilai la mia solita tuta bianca e corsi verso le scale che conducevano alla sala macchine. Raggiunta la porta stagna, la aprì, ma una nuvola di vapore mi investì. Per un attimo ebbi un senso di soffocamento, ma pensando alla gravità della situazione entrai. Dall'alto intravedevo la sala macchine, ma il vapore mi impediva di vedere completamente la situazione. La temperatura era altissima. Vedevo delle figure giù in basso che si muovevano, anche se tra loro scorgevo rottami e cavi elettrici penzolanti. L'esplosione fu così grave da farci imbarcare acqua, e per precauzione il comandante fece dare l'annuncio di prepararsi ad abbandonare la nave. In sala macchine, intanto, eravamo tutti impegnati a risolvere una situazione drammatica. Una caldaia ausiliaria era esplosa, coinvolgendo altri macchinari e quadri elettrici. Capimmo che l'onda d'urto aveva interessato tutte le tubazioni di acqua di mare e questa si stava riversando in sala macchine, e lentamente il livello dell'acqua saliva. Le pompe in servizio non riuscivano a smaltire tutta l'acqua che stavamo imbarcando. A 24 ore di navigazione tra noi e Sydney si trovava Noumea, in Nuova Caledonia. Decidemmo quindi di fare scalo al porto di Noumea, ma le autorità cercarono di impedircelo. Infatti era in corso un'insurrezione popolare, dove la popolazione cercava di prendere il potere a scapito del governo costituito. Noi facciamo presente la nostra situazione e gli accordi internazionali dove vige l'obbligo di soccorso a navi in difficoltà. Dopo poche ore ci venne concesso dagli insorti il permesso di attracco per il rifornimento, ma il divieto assoluto di sbarcare per qualsiasi passeggero e uomo dell'equipaggio. Ma per noi non era un problema, ci bastava l'acqua. Arrivati a Numea, iniziammo le operazioni di imbarco dell'acqua ed io fui destinato al controllo di queste operazioni. Dopo circa 4 ore mi chiamò urgentemente l'operaio di guardia dicendomi: «Signore, qui non arriva acqua». Recatomi sul posto, vidi che il manometro della tubazione segnava desolatamente 0. Chiamato l'operaio di terra, gli dissi in inglese: «Ehi, qui non arriva acqua». E lui, con un pessimo inglese, mi disse: «Sì, pochina pochina, ma arriva». Mostrando però un sorriso beffardo, capì che non ci stavano rifornendo. I consumi erano maggiori di quanto ci stavano rifornendo in quel momento e, facendo alcuni calcoli, avevamo imbarcato poco più del minimo necessario per la traversata di 2 giorni che ci avrebbe consentito di raggiungere Sydney. Decidemmo quindi di tentare la sorte e chiedemmo di mollare i cavi in modo da salpare. Ma «It's impossible, I am sorry», rispose l'uomo sottobordo. Dopo pochi minuti arrivarono i ribelli armati di fucile e si schierarono tutti lungo la banchina. Nessuno poteva scendere e loro non mollavano i cavi. Avremmo potuto tagliarli, ma di fronte a degli uomini armati e 1400 passeggeri a bordo non ci sembrò la soluzione migliore. Inoltre, uno dei cavi di poppa era in acciaio. Insomma, eravamo ostaggio dei ribelli. Più volte provammo a convincerli, spiegando al capo che avevamo a bordo 1400 passeggeri australiani, totalmente estranei alla situazione politica del loro paese, ma fu tutto inutile. Riuscimmo allora a contattare l'esercito locale, via radio, e con loro organizzammo un tentativo di liberazione da effettuarsi quella notte stessa. Verso 1:30 mi recai in sala macchine ed iniziammo le operazioni di preparazione delle turbine, mentre i marinai, senza farsi notare, si preparavano per la manovra sul ponte. I passeggeri e parte dell'equipaggio dormivano tranquillamente nelle loro cabine, quando improvvisamente si sentirono degli spari. L'esercito, con alcune autoblindo, aveva sfondato le reti del recinto del porto e stava avanzando sparando. Gli insorti risposero al fuoco con le loro armi automatiche e iniziò un conflitto a fuoco. In quel momento spingemmo al massimo la pressione delle caldaie, mentre a prua i marinai tagliavano il robusto cavo di canapa. Un marinaio, approfittando della confusione del momento, scese dalla banchina e mollò il cavo di poppa. Solo mentre stava risalendo, uno degli insorti si rese conto di quanto avvenuto e, girandosi, sparò con il suo fucile verso di lui. Ma questi era già al sicuro a bordo. La nave velocemente si staccò dalla banchina e prese il mare nella notte. La navigazione verso Sydney avvenne con le macchine avanti tutta. Il livello dell'acqua scendeva, ma l'unico desalinizzatore in servizio funzionava egregiamente. La falla era sotto controllo e non accennava ad aumentare. Gli operai dell'officina avevano fatto davvero un ottimo lavoro. Dopo circa 2 giorni di navigazione raggiungemmo il porto di Sydney e, terminate le manovre in sala macchine, mi recai sul ponte a guardare la banchina. Vidi le telecamere delle televisioni e i giornalisti che ci accoglievano. La banchina era affollata dai parenti dei passeggeri che non vedevano l'ora di riabbracciare i loro cari. Sono passati tanti anni. Oggi non navigo più. Lavoro in una centrale elettrica. Ho una bella moglie e 2 bellissimi bambini. Dal mio ufficio vedo le navi passare. Immagino il rumore dei motori, la brezza sul ponte e mi chiedo quale sarà il loro prossimo porto. And so now the longest of places I was. I quit my rambling and came home. 'Cause maybe I was born to hold you in these arms. Maybe I was born to hold you in these arms. Questa è una storia che arriva praticamente da un altro mondo. È la storia di Marisa. C'è Marisa tra di noi? Se ci fosse Marisa sarebbe bellissimo, ma temo che non ci sia. C'è Marisa? Facciamo un applauso a Marisa, perché adesso sentirete la sua storia. Poi veniamo da te. Siamo nel 1961 e siamo in Australia. Nel 1961 ero imbarcata a ruolo come seconda infermiera sulla MS Neptunia del Lloyd Triestino, in partenza da Genova per Sydney. Ad ogni imbarco venivano effettuati rigorosi controlli di tutta la documentazione cartacea in possesso di ogni persona che saliva a bordo. All'equipe sanitaria e in particolare al primo medico, direttore, era demandato l'accertamento dei certificati di salute e delle avvenute vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie prescritte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In quel tempo antivaiolosa e antidifterica, antitifica e antitetanica per particolari categorie contro il colera e contro la febbre gialla per casi o viaggi molto particolari. Nessuno quindi veniva imbarcato senza la regolare documentazione firmata dall'autorità competente che ne attestava la validità. E a quella noi dovevamo attenerci. Ma proprio durante un viaggio di andata, nell'autunno del 1961, sulla nave si verificò una sospetta epidemia di difterite. Risultarono positivi all'esame microscopico alcuni bambini. Il dubbio del rilascio frettoloso dei certificati, o peggio, di vaccinazioni male o addirittura non eseguite e falsamente convalidate, si rese evidente. In quegli stessi giorni via radio giunse notizia, naturalmente riservata al comando e alla sanità, che su una nave greca c'era stato un caso mortale proprio di difterite, malattia che allora suscitava ancora forte timore, e le misure protettive intraprese a bordo, sia per l'intero equipaggio che per i passeggeri, furono rigorosissime. Isolamento immediato dei casi sospetti, pratica del tampone salivare a tutto l'equipaggio e a tutti i viaggiatori, successiva inoculazione del siero a scopo preventivo. Il lavoro di tutta l'equipe fu molto intenso e continuo, e all'interno dell'ospedale per malati infettivi, dove i bambini di ambo i sessi furono ricoverati nella stessa sezione insieme alle mamme, per me lo fu in modo particolare. L'avvertì tale sia per la responsabilità tecnico-assistenziale infermieristica, sia per gli aspetti igienici, sia per la relazione umana tesa a tranquillizzare mamme e bambini e fornire comunque sollievo quando beccheggio e rolio sembravano aggravare tutto. Di notte, nella mia cabina situata all'interno dello stesso ospedale, lasciavo la porta socchiusa, fissata con un gancio, in modo da udire ogni minimo segno di allarme e intervenire subito. Senza essere chiamata, durante le ore notturne, mi recavo comunque spesso accanto ai bambini per ascoltarne il respiro, controllare gli altri parametri vitali e sussurrare «tutto bene». La famosa bandiera gialla, corrispondente alla lettera Q, Quebec, che sapevo essere distintiva della quarantena in rada per tutta la durata di un'epidemia, veniva invece issata sulla nave nell'avvicinamento ai porti per chiedere, secondo il codice internazionale, la libera pratica, garantendo così che tutto in fatto di salute pubblica fosse in regola e consentisse all'autorità sanitaria di salire a bordo per la verifica prima di concedere la discesa ad equipaggio e a passeggeri. Entrammo così nel porto di Melbourne con la bandiera gialla, dove i controlli garantirono la completa regolarità sanitaria con nostra grande soddisfazione, sollievo delle famiglie e delle altre persone, e la possibilità di sbarco dei bambini e il loro trasferimento nel grande ospedale di Melbourne per gli ulteriori accertamenti. Il più piccolo del gruppo, che durante la degenza mi aveva sospeso e mi aveva spesso accettata come sostituto della sua mamma, scese dalla Neptunia tra le mie braccia, stupito di tanta luce e dei flash. Marisa, per quanto tempo l'hai fatto questo mestiere? Io mi ero imbarcata, come vi ho scritto, esclusivamente per fare dei viaggi e conoscere il mondo, e sono stata imbarcata per circa 2 anni, e poi, secondo le disposizioni di allora, bastava fare un viaggio nei 5 anni per rinnovare il libretto di navigazione. Poi avevo fatto qualche altro viaggio durante le ferie quando ho ripreso il lavoro a terra. Sembri tedesca semplicemente perché hai... No, sono di lingua francese. Okay, io, perché non vengo da una famiglia di emigranti anch'io, quindi nella mia storia c'è l'emigrazione come in quella di molti italiani. Grazie mille Marisa, grazie. Grazie a te. Paolo Bonifacio, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, ascoltate il programma, ascoltate la radio, ha compiuto 15 anni, lo sapete, ve ne siete accorti? Sempre qua, cioè andiamo avanti, non è che cambia nulla però. Grazie ancora per essere stati con noi, ciao a tutti. Carmelo, vivo nel comune di Tripi e la storia di domani è la mia, e racconto quando ero un ragazzo che allevavo le vacche per poter studiare. Questa è la mia storia e io sono qui.